Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Abbasso i catto progressisti. Manera ha la para influenza. Alino ha i baffi lunghi. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Ah, signori, io mi devo ancora riprendere dalla telefonata di Manuela dal centro commerciale ieri che ci dava dei catto progressisti. Grazie all'ascoltatore che ha colto questo aspetto e ne ha fatto una pre-sigla che abbiamo mandato. Radio Londra, meravigliosa, meravigliosa. Catto progressisti che sono la versione 2.0 dei catto comunisti. Io e Manera, che non c'entrava nulla, però se l'è presa così sul groppone, perché così. Sì. Catto progressista è la versione 2.0 del catto comunismo. Eccoci. Allora, ci siamo insomma evoluti dal catto comunismo al catto progressismo. 9 e 10 minuti, siamo qui, cari ascoltatori, siamo con voi. Siamo con voi fino alle 11 per trattare tanti temi, come sempre, di attualità. 800 24 0024, ci siamo. 349 238 6666. È tornata con noi Miriam Lucchetti. Dove eri sparita? Ieri reclamavano la tua voce, gente che ha lanciato una petizione anche su change.org. Ora vogliamo la voce di Miriam Lucchetti dopo quella di Elisabetta Fusconi. La voce di Lorenzo Nespoli, diciamo la verità, non interessa a niuno. Insieme all'Alpino, vai Alpino! Enthusiasm about the future. Certo, i dati sulla natalità di cui hanno parlato anche poco fa Simone Spezia e Maria Latella denotano una scarsa propensione all'enthusiasm about the future. Va bene, siamo qua, non parliamo di questo. Se volete, sì, siamo una radio di flusso, quindi se volete parlare della natalità, peschiamo tutto. Ho detto peschiamo perché adesso devo dire una cosa sulle sardine, scusate. No, peschiamo tutto. Mi ha colpito per esempio l'analisi del sociologo De Rita, cioè Giuseppe De Rita è un grandissimo sociologo, uno dei più grandi sociologi, fondatore del Censis, e tra l'altro credo che abbia 8-9 figli, spero di non perdermene qualcuno, ma ne ha fatti parecchi nella sua vita De Rita. Prima sfida Lucchetti, Giuseppe De Rita, quanti figli? Che è brutto sbagliare il numero di figli. Minimo, secondo me 8, così vado a memoria. 8? Ho indovinato, 8 figli ha fatto De Rita. Però fa questa analisi molto interessante sulla stampa. In questa analisi parla anche di questo, e io queste analisi quando poi... Ovviamente un'analisi è una fotografia generale, ma io so che molti quando sentiranno queste parole si innervosiranno. Ma De Rita dice che il motivo, uno dei motivi per cui non si fanno più figli è questo, che c'è un narcisismo di massa. Un narcisismo di massa che fa temere al ceto medio un progressivo impoverimento. Insomma, non si è più disposti a fare sacrifici per proiettare in avanti attraverso i figli le proprie speranze. Sono tanti i motivi, ma uno è questo: rifiutate i sacrifici che i figli richiedono. Questo dice De Rita. 8 figli e 14 nipoti. I nipoti me li ero persi. Vabbè, no, ma comunque, se volete parliamo di questo, ma mi hanno colpito due cose oggi sui giornali nello specifico. La prima, allora, è arrivata la proposta delle sardine. Perché voi criticate le sardine e io critico le sardine dicendo non hanno proposte? Hanno incontrato il ministro al sud Provenzano e hanno lanciato una proposta. Oh, dice... Finalmente, la proposta delle sardine. Eccolo qua, Mattia Santori, ovviamente portavoce delle sardine, quello più mediatico, quello che quando esce viene attorniato da diversi microfoni di giornalisti, ha incontrato Provenzano e poi ha lanciato questa proposta sull'Erasmus al sud. Ma cioè, se si parla di Erasmus, connessione tra nord e sud, sì, perché non ripristiniamo già dall'università una sorta di Erasmus tra diverse regioni del paese? Perché un napoletano non può farsi 6 mesi al Politecnico di Torino e un torinese non può farsi 6 mesi a Napoli o a Palermo per studiare archeologia, arte, cultura o diritto? Questo potrebbe essere, ad esempio, una di quelle novità una novità. Cambierebbe un po' il paradigma, riprendendo un fatto importante che è quello della connessione. La connessione. Ma un napoletano si può iscrivere al Politecnico di Torino? Come uno di Torino può iscriversi a Palermo? Cioè, nel senso, questa cosa sei mesi qua, sei mesi là, metterebbe un po' in crisi gli Atenei, cioè, nel senso... Ma non ho capito. No, cioè, nel senso, ho capito, ma non... Ma perché sei mesi a studiare? Ma se vuoi iscriverti a Napoli, iscriviti a Napoli. Bah, vabbè, ecco, questa è la proposta delle sardine. Ma signori, il primo tema che voglio affrontare, ecco, c'è uno che mi dice che è di Rovigo e ha fatto l'Erasmus a Padova. Effettivamente, io non l'ho capita questa cosa, sei mesi di interconnessione. Vabbè, dai. Non capisco neanche come mai quando esci ci siano sempre, guardate le foto, 15 microfoni che pendono dalle proposte delle sardine. Va bene. Allora, quello che invece mi ha colpito è questo. Oggi Sergio Rizzo su Repubblica verga 50 righe caustiche sulla politica italiana, quella che esulta per la ricerca dello Spallanzani, abbiamo isolato il coronavirus... evviva, evviva! E poi in Parlamento fa di tutto per limitare la ricerca con la sperimentazione sugli animali. E allora Sergio Rizzo si chiede proprio questo: ma che politica è quella che da una parte annuncia i trionfante e il fatto di avere fatto una ricerca scientifica, una scoperta importante con il nostro paese, dall'altra parte, recependo la direttiva del 2013 sulla sperimentazione animale, siamo il paese che abbiamo fatto le norme più stringenti vietando la sperimentazione per gli xenotrapianti, cioè l'utilizzo di animali per gli organi animali per trapianti umani, viene introdotto il divieto di utilizzare gli animali per le sostanze d'abuso, per esempio i farmaci oncologici, e ci ritroveremo presto all'ultimo posticino d'Europa facendo delle leggi molto più stringenti degli altri paesi limitando la ricerca. E per esempio Berlusconi, che è paladino di questa nuova fede animalista sospinto da Michela Vittoria Brambilla, però si fa notare che nel 2016 ha avuto un impianto di una valvola cardiaca presa da un maiale. E allora, com'è sta cosa? Ci va bene la valvola cardiaca del maiale quando ci deve salvare la vita? E da dove l'abbiamo presa quella valvola cardiaca, Silvio Berlusconi? L'abbiamo presa da un maiale. Allora, perché la politica si muove così? Lo voglio chiedere al professor Giuseppe Remuzzi, uno dei ricercatori, Istituto Mario Negri, più prestigiosi in Italia e nel mondo. Professor Remuzzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, le chiedo questo: che paese è quello in cui la politica con la mano sinistra celebra l'ultima ricerca dello Spallanzani dicendo abbiamo isolato il virus, e con la mano destra poi mette in atto degli atti per limitare questa stessa ricerca biomedica? Guardato da fuori sembrerebbe un paese schizofrenico, giusto? In realtà io credo che non ci siano persone che studiano, non ci siano persone che vogliono avere delle competenze. Quello che fanno è leggono qualcosa, dicono delle cose che hanno letto, ascoltano, sentono gli amici, guardano i sondaggi. Questa cosa pazzesca che è stata introdotta nel nostro paese tanto tempo fa. Guardiamo i sondaggi e poi ci muoviamo a seconda di quello che dicono i sondaggi, esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un buon politico: decidere, perdere le elezioni perché ha deciso una cosa impopolare, ma rimanere nella storia del nostro paese come una persona che ha, nel caso nostro, aiutato la ricerca, trovato la soluzione del coronavirus e di tante altre epidemie che arriveranno negli anni prossimi, alle quali dobbiamo essere preparati. Ecco, ma ci può spiegare quali sono i limiti più stringenti che rischiano di mettere l'Italia nell'immediato futuro fuori in qualche modo dal consesso della ricerca europea? Noi abbiamo due problemi. Abbiamo voluto essere più realisti del re, e quello che è successo è che noi abbiamo delle leggi per utilizzare gli animali che ci penalizzano rispetto a tutti gli altri paesi. C'è una normativa europea è una normativa molto attenta al benessere degli animali. Voi non avete idea, venite a vedere i nostri stabulari, sono molto più eleganti, puliti di qualsiasi sala operatoria, di qualsiasi ospedale d'Italia. Quindi abbiamo degli, per gli animali delle attenzioni che sono addirittura superiori a quelle che abbiamo per gli uomini, che è sbagliato. Però abbiamo delle leggi per cui prima di utilizzare un certo numero di animali, il meno possibile, che è anche sbagliato da un certo punto di vista, per fare una determinata, un determinato studio che serve per far avanzare conoscenze o per trovare delle cure, noi dobbiamo fare delle pratiche all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Sanità, all'AIFA, e devono venire tutte le risposte. Quando noi abbiamo tutte le risposte e non possiamo toccare un animale prima di aver detto tutto quello che facciamo, gli altri nostri competitori in Olanda, in Germania, in Francia hanno già finito gli esperimenti e quindi noi siamo tagliati fuori dalla ricerca, abbiamo meno ricercatori, li abbiamo abbastanza bravi perché pubblicano bene, ma facciamo di tutto per non metterli in condizioni di lavorare. Le leggi europee sono restrittive, le nostre devono essere ancora più restrittive. Non so, abbiamo il problema delle droghe d'abuso, abbiamo il problema dei ragazzi, degli oppiacei. Gli oppiacei stanno diventando una piaga negli Stati Uniti e noi non possiamo usare gli animali per studiare le sostanze d'abuso. Come faremo a portare un contributo alla soluzione di questi problemi? Le chiedo per paradosso, lei rispetta di più la posizione degli animalisti che dicono non bisognerebbe neanche utilizzare nemmeno un animale, nemmeno una formica, o come dire, rispetta di più la politica che dice da una parte no, beh, utilizziamo gli animali, facciamo la sperimentazione, però poi si muove in maniera un po' così sgangherata? Ma sa, per gli animalisti che non vogliono niente, neanche le formiche, bisognerebbe dire siate coerenti e quindi non usate nessun farmaco che è stato sperimentato grazie alla ricerca animale. E quello è molto semplice, non c'è nessun farmaco che può essere messo in commercio senza essere stato provato sugli animali. Quindi basta che gli animalisti dicono noi portiamo avanti questa battaglia e siamo coerenti e non usiamo nemmeno l'aspirina. Va benissimo. Tra l'altro, se vogliamo dirla in modo un po' cinico, dopo un po' non ci sarebbero più gli animalisti se facessimo così. Capisco che lo sto dicendo per paradosso. I politici che dicono una cosa sì, una cosa no, che non sanno neanche loro che gli animali diventano un modo per fare lotta politica contro quello che dice di sì, bisogna dire di no, questo veramente è molto triste. Io non riesco neanche a commentare una cosa così triste, perché è quasi una cattiveria utilizzare cose serie, cose che hanno a che fare con la vita della gente. Adesso con questo coronavirus tutti ci chiedono ma perché il vaccino non lo fate domani? Ma il vaccino ha bisogno di un sacco di cose, compreso gli animali. Noi lavoriamo dal mattino alla sera e abbiamo delle persone che lavorano per renderci impossibile di lavorare. Col risultato che siamo sempre più forti, perché non dobbiamo soltanto lavorare dal mattino alla sera, dobbiamo anche tener conto di quelli che ci impediscono di lavorare. Però è assurdo che noi paghiamo della gente un sacco di soldi, certo, perché faccio delle cose tecnicamente insostenibili. Va bene, intanto io la ringrazio. Io non lo so cosa ne pensiate voi, ma condivido la posizione del professor Remuzzi, che voglio dire, da scienziato, tra l'altro insieme ad altri ricercatori, Giovanni Apolone, Marco Fogliani, Gianvito Martino, altri direttori scientifici di istituti nazionali di tumori, di oncologia molecolare San Raffaele, del Mario Negri di Milano, tutti insieme hanno scritto al Premier Conte a dire no, così la politica non fa il lavoro della ricerca, due giorni dopo avere lodato giustamente quelle ricercatrici dello Spallanzani che hanno isolato il virus. E allora la coerenza dove sta? Allora, alle 9:23 minuti però voglio adesso raccontarvi una storia. Lo faccio grazie anche al caporedattore di Avvenire, Tony Mira, che è con noi. Tony, buongiorno, eccoci. Buongiorno, grazie. Grazie, perché Tony Mira ha seguito e ha raccontato in una splendida pagina, io devo dire, su Avvenire, pubblicata ieri, la storia di Nino Bartuccio, che è con noi. Bartuccio, buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Nino Bartuccio è l'ex sindaco di Rizziconi, siamo a Reggio Calabria. Però, lei da Rizziconi è dovuto, come dire, stare via per diversi mesi. 68 mesi e 3 giorni, questi li ha contati così Tony Mira. Sono corretti, Nino Bartuccio? 68 mesi e 3 giorni. Sono corretti 68 mesi, oggi 8 giorni. E oggi 8 giorni, certo. Oggi 8 giorni, ma non 68 mesi e 8 giorni che sono via dal mio paese. Sono 68 mesi e 8 giorni che io e tutta la mia famiglia viviamo sotto scorta nel nostro paese, non siamo andati via. Sì, no, che non potete, non ha più parlato in pubblico, insomma. Esatto. E da 68 mesi e 8 giorni è sotto scorta. Perché? Perché non si è, come dire, ha deciso di denunciare, insomma, di denunciare la cosca dei Crea, che è molto potente da quelle parti. È vero che il boss è chiamato Dio Onnipotente come soprannome? Sì, questo appellativo nasce da un colloquio che c'è stato tra me e il papà di uno dei ragazzi che facevano parte della mia giunta, e che nell'indicarlo l'ha definito come Dio Onnipotente. E così, sì, è vero. E il procuratore Federico Capiero De Rao, quando successivamente agli arresti del 4 giugno dell'operazione Deus, definì il contesto di Rizziconi come un contesto medievale, proprio perché si riferiva a questo al boss, che lo paragonava al signore di quei tempi. 68 mesi e 8 giorni, perché Nino Bartuccio sotto scorta, lui e la famiglia sotto scorta pesante, perché lui denunciò da sindaco allora il clan. È tornato a parlare in pubblico. Tony, tu l'hai seguito, è tornato a parlare in pubblico, poi in pagina hai trasferito le emozioni, insomma l'attesa, le sensazioni, cioè, puoi raccontare cosa vuol dire di un ex sindaco che dopo 68 mesi può tornare a parlare in pubblico? Devo dire che subito le sue prime parole sono state particolarmente emozionanti, perché lui ha notato subito che alle sue spalle c'era il gonfalone del paese, che solitamente si trova alle spalle del Consiglio Comunale quando ci sono le riunioni politiche in un comune, e quindi lui ha ricordato che diciamo il suo impegno politico, e quindi quel golfalone gli ricordava quell'attività. Quindi questo è stato un momento già particolarmente emozionante. Poi devo dire che anche il suo racconto, il racconto delle aggressioni ricevute da lui, dal padre, dal figlio minorenne. Io guardavo i ragazzi che lo stavano ad ascoltare, c'erano molti ragazzi delle scuole di Rizziconi, erano veramente molto attenti. Non è facile, devo dire, io faccio tanti incontri nelle scuole con i ragazzi, non è facile riuscire a, tra virgolette, catturare l'attenzione su questi temi che sembrano così lontani da quello che è la vita di questi ragazzi. Ebbene, devo dire che c'era un silenzio incredibile, che è molto difficile ottenere in questi incontri, e tutti i ragazzi erano girati verso Nino. Era un momento veramente molto, molto, molto forte. Credo che se i ragazzi cominciano ad avere questa attenzione, ci sono i presupposti per avere un cambiamento. Secondo me è incredibile che lei, Nino Bartuccio, abbia dovuto dire, ma l'ha ribadito, lo rifarei 100 volte, e soprattutto la frase che mi ha colpito: non sono un infame. Ma perché? C'è qualcuno o ci sono tante persone che l'hanno fatta sentire tale per avere denunciato Bartuccio? Io e la mia famiglia nella prima fase successiva all'operazione di polizia siamo stati isolati nel mio paese, e da un lato per la paura dei nostri concittadini di esporsi, di farsi vedere, anche ad avvicinarsi per salutarci, e dall'altro chiaramente c'era questa azione da parte di coloro i quali erano molto vicini alla criminalità organizzata, che tentavano chiaramente di in ogni modo di discreditare, sì, delegittimare l'azione che avevo fatto. Che poi, mi creda, io ci tengo a sottolinearlo, perché molto spesso nelle occasioni in cui mi trovo a parlare con i ragazzi o in occasione di convegni sulla legalità, si parla di coraggio. In realtà non c'è stata nessuna azione di coraggio, c'è stato solo ed esclusivamente un cittadino che ha fatto il proprio dovere. Io voglio sempre sottolinearlo che le istituzioni, ed io ero parte delle istituzioni della nostra bella Italia, non fanno opere straordinarie, fanno solo ed esclusivamente il proprio dovere. E però questo è un po' il tema centrale, Tony Mira, anche il problema culturale su cui lavorare, cioè se ancora viene tirata fuori questa parola infame di fronte a chi fa il proprio dovere, cioè denunciare una cosa che non va, denunciare un problema che non c'è, che si vede e che si tocca con mano, e viene definito così, come dire, il percorso culturale è ancora molto molto lungo, mi sembra di poter dire. Certo. Beh, giustamente il Bertuccio ha parlato anche di paura, ed è anche, non voglio dire, giustificata, però vorrei ricordare che questo paese di Rizziconi ha un unico collaboratore di giustizia, uno solo, che ha cominciato a collaborare nel 2003 dopo aver provato a uccidere il boss della Cosca, Teodoro Crea. Gli spara, pensa di averlo ucciso e va dai carabinieri e decide di collaborare. Bene, siamo nel 2003, gli avevano ucciso il padre alcuni anni prima, nel 1995, nel 2004 gli uccidono il suocero, nel 2018, cioè 15 anni dopo, gli uccidono il fratello a Pesaro. Allora, ecco, uno capisce qual è la situazione, chiaro. Perché il collaboratore di giustizia è un infame, è un infame. Non soltanto per quello che dice, ma proprio perché rompe quello che tu hai definito questa subcultura per il quale bisogna essere assolutamente obbedienti a questo signore, a questo Dio onnipotente. Esiste da questo punto di vista, Bertuccio, cioè la vita sotto scorta ovviamente ce l'ha raccontata, 68 mesi, 8 giorni, è una scorta che, come dire, glielo chiedo, lei conoscerà meglio di me quali sono le dinamiche, è una scorta che non finirà mai? Beh, guardi, possiamo analizzare due aspetti. Se vogliamo essere realisti, è molto difficile che questa condizione termini. Tony vi ha parlato poco fa di un omicidio che c'è stato nel 2018, a dicembre, a Pesaro. È stato assassinato il fratello di un collaboratore di giustizia che aveva tentato di uccidere il boss molti anni prima, più di 15 anni prima. Quindi, se si pensa a queste cose, chiaramente, se si vuole essere realisti, è molto difficile pensare che questa condizione cesserà, almeno nel breve periodo. Dall'altro canto, invece, io voglio sperare che questa condizione cessi al più presto possibile. Le posso assicurare che nel mio paese sono cambiate tante cose. Del resto, dopo 68 mesi e 3 giorni c'è stato un mio intervento in pubblico, ma non è solo questo. Partendo dal giorno in cui in chiesa tutti uscivano dalle navate laterali per evitare di incontrarci, perché avevano paura anche di salutarci, quando io e la mia famiglia eravamo seduti in fondo alla chiesa, oggi ci ritroviamo in una situazione molto diversa. Prima c'è stato lo sconforto, adesso ci ritroviamo in una situazione per cui i cittadini, tantissimi cittadini, non perché vi evitano quello più. Assolutamente, il mio paese è composto per la stragrande maggioranza di persone per bene, adesso non hanno più paura, non hanno almeno la paura che avevano prima, certo. Hanno visto lo Stato presente, le istituzioni, hanno visto che non ci hanno abbandonato e che noi, nonostante tutto, sia io che la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, i miei anziani genitori, continuiamo a vivere a Rizziconi, nel mio paese, dove pur, purtroppo sono accadute tante certo. cose brutte che hanno segnato la vita sì, di questa città. Mettiamola così, diciamo un passo alla volta o un passettino alla volta. Io intanto vi ringrazio sia Nino Bartuccio, ex sindaco di Rizziconi, Reggio Calabria, sia Tony Mira, caporedattore di Avvenire, quotidiano che secondo me va sempre letto perché ha delle storie anche diverse, insomma si distingue un po' dai giornali che raccontano tutte le stesse cose, e questa storia raccontata da Tony Mira su Avvenire ieri, ci ha dato veramente il là a dire dobbiamo raccontarla anche qui in radio. Grazie a Tony Mira, caporedattore d'Avvenire. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, dovresti essere contento, le sardine è roba tua. Alino, Lenin, Sardilio, Milan. 6 mesi a Napoli, 6 mesi a Palermo, a Milano. Tutto è per spillare soldi e per farsi le vacanze. Ma quale Erasmo? Andate a lavorare, va, meglio, va. Lucchetti sì, Fusconi no. Ha una voce petulante. Da bambina piccola sarà stata una di quelle bambine sempre più aiucolose. E da bambina a scuola, quindi, quella che mette la mano per non far copiare. Petulante, sì, petulante della voce. Quindi prima ha parlato Miriam Lucchetti. No, ciao Leonardo. Buongiorno. Intanto la gente chiede ora la voce di Miriam Lucchetti, non quella di Petulia. Ma allora Petulia, Miriam non vuole venire, ma se Peter Bescapè poi va a recuperare le vecchie pubblicità Bellugi, in una o due pubblicità Bellugi c'è la voce più suadente di Miriam Lucchetti, che poi faremo ascoltare. Più Lucchetti, meno Fusconi. Bello questo catfight adesso. Bello, bello, bello. Allora, Lucchetti. Andiamo dopo a recuperare le pubblicità. Sì, sì, erano per esempio lo spaccone Bellugi. Spaccone Bellugi. Adesso ne faremo sentire una. Non mica quella di Petulia. Vabbè, aspetta, la facciamo sentire dopo. Allora, tutto bene, caro Leonardo? Ma sì, oggi è una giornata paraprimaverile, anzi è proprio primaverile oggi qui a Milano, non so nel resto d'Italia, però sembra in tutta Italia. Dico, perché non chiamiamo Manuela di ieri per dare il benvenuto soft a Manera? No. Manuela, se c'è, possiamo, non lo so, no, dopo si arrabbia, giustamente Manuela dice così mi prendete in giro, però ieri ha fatto un intervento molto energico. Ce l'aveva energico. Giustamente con te, catto anche progressista. No, io non c'ero nel periodo in cui avete parlato. Ma ha detto siete dei catto progressisti, scusa, sì. Adesso ti vuoi tirare fuori. Tu per solidarietà devi prendere tutto quello che viene qua. Beh, qui è innegabile che Radio 24 abbia insulti. Un po' questo mood da catto progressista. Ecco. No, è innegabile che sia così. Allora, io non lo so, gli ascoltatori molti si indignano e dicono ah, ma tu critichi le sardine, ma io non è che dico, ma cioè la proposta delle sardine di fare l'Erasmus tra sud e nord, 6 mesi gli studenti qui, ma siamo studenti? Giovani, abbiamo i giovani, gli studenti che sono cittadini del mondo, dell'Europa, del mondo, sì. E noi a guardare facciano, cioè mi sembra proprio una roba, ecco, molto italiana. Che gli studenti siano cittadini del mondo, dai. È nel mondo dei sogni, appunto, questa roba. Ma per una parte, adesso per una parte. Andare a studiare, sì, ma è una parte. Che studiano, pochi. Vabbè, ma allora se si parla di Erasmus, si parla di universitari, no? Sì, ma anche quelli universitari sono non tantissimi, quelli che vogliono, la maggior parte vuole stare nella propria cittadina. Sì, va bene, ma noi siamo un sei paese. Sei di Parma, studi a Parma, sei contento lì, per esempio. Noi siamo un paese molto italiano in questo. Per esempio, guardate, cioè mi sembra un atteggiamento molto italiano. E lo dico nel senso di guardarsi all'ombelico, molto, molto provinciale. Ecco, provinciale. Per esempio, ti faccio un esempio. Ma tu, Leonardo Manera, dov'è che trovi un titolo come oggi sulla stampa sulla vicenda della nave da crociera Yokohama? Sono tutti richiusi là. La stampa di solito è un giornale molto sobrio. Esatto. Che titolo ha? Il titolo della stampa è questo: la quarantena infinita dei croceristi. Mangiamo bene, ma fateci scendere. Ma dove trovi un titolo come fai a trovare sul New York Times un titolo così? Mangiamo bene, che ricorda tutti i richiami della nonna. Come hai mangiato? Mangi, figliuolo, mangi abbastanza. Tu vai in Burkina Faso e ma si mangia bene, hai mangiato, mamma, mangi abbastanza. Questa è proprio una polemica sterile. Ma no, scusa, ma dai, sei giornalista italiano, no. Mangiamo, ma non è vero, bene. Ma se il giornalista, se il giornalista intervista un crocierista che è lì e il crocierista dice ma mangiamo bene, semplicemente ma riporta il primo problema, ma riporta quello che ha detto il crocierista. Ma chissà cosa ne però pensa, fammi segnare che nave è che Ronchi, ma Ronchi, ma veramente sgadio, mangiamo bene, mangiamo con gli hamburger. Ecco, vabbè. E dov'è la crociera? Quella io sì, ho capito, ma vorrei sapere qual è la nave. È la Diamond, è una nave italiana. Oh Diamond, ti ricordi quella canzone? Sì, cioè, mangiamo bene. Sì, questa però è la prima preoccupazione dell'italiano, mangiare. È così, okay. Quando va all'estero, quando va in crociera. Tu sei mai stato in crociera? No, non sono. Io sono stato diverse volte per lavoro. La cosa che interessa di più ai crocieristi è il mangiare, sì, è ma il cibo. Ma se c'hai il coronavirus a bordo, no, non sarà il tuo primo interesse. Meglio essere malati mangiando bene che malati mangiando anche male. Va bene, c'è Emanuele ci chiama dalla provincia di Varese, credo sull'altro grande tema, i figli, eccoci qua, Emanuele. Prego. Sì, ciao a tutti. Pensavo di essere un po' fuori tema, visto che parlavate di mangiare. Ma va. Però un pochino sall'atta, perché signori, cioè, in un paese in cui abbiamo tra cani e gatti 15 milioni di pet, cioè vorrei dire, ma siamo individualisti, la gente non fa i figli perché è questo il motivo. Siamo individualisti. Sì. Ci sono più pesciolini in casa, cani e gatti, e i bambini non si fanno. Ma chi se ne frega di fare i figli? Portano casino, costano... Non sei più libero, le scuole sono sempre chiuse. Insomma, quindi tu, Emanuele, rientri nella dichiarazione di Giuseppe De Rita del Censi. No, scusate, aspetta, devo dire una cosa. Manera in questo momento ha tirato fuori la mucchina e si sta lavando le mani. Cioè, ragazzi, anche solo la parola coronavirus, vi giuro, ha tirato fuori la mucchina, il gel igienizzante e si sta. Dice il Ministero della Salute di lavarsi bene le mani. Io sono. Scusa, Emanuele, ma guarda, io una tempero. Scena penosa. Penosa. Vabbè, torniamo a Emanuele. Siamo anche contro l'igiene ormai. No. Cioè, contro l'igiene. Mi pulisco le mani e sbaglio io. Ma guarda Emanuele, che colmo veramente. Quindi rientra nella categoria di De Rita, di quelli che dicono gli italiani sono anche un po' narcisisti, sono un po' e quindi non pensano. No, non pensano a. Va bene, è così. Grazie, Emanuele. Niente, questo intanto si lava le mani. Però mi passi un attimo il gel. Sì, vedi che anche tu puoi. Il problema è non si fanno figli perché i figli sono impegnati. Impegnativi costano, però poi quelli che non fanno figli spesso vanno a prendersi un animale che è più impegnativo, anche lì lo devi portare fuori e fa la cacca per strada, devi raccogliere la sua cacca per strada. Aspetta, c'è Manuela, buongiorno Manuela, come stai? Sì, buongiorno, io sto benissimo, grande, come quasi tutte le mattine. Volevo precisare che io non sono gatto progressista. No, noi siamo gatto. Non voi, lei, Milan. Grazie. Manera non c'entra niente. Sì. Quindi non sono gatto progressista, quindi io sono intelligente, sì. Quindi sono dotata di senso dell'umorismo, quindi non mi offendo e anzi mi diverto moltissimo. Grande. Quindi, Cosa fai oggi? Qual è il programma della giornata? Lavoro come tutti i giorni. Che lavoro, si può sapere che lavoro fai? Io sono psicologa, ottimo. Ma lei accetta tu, Manuela, accetti tutti i clienti o i catto progressisti tendi a non psicanalizzarli? No, perché un catto progressista lo psicanalizzi così, con diciamo questa aggressività. Che i catto progressisti, deficitando di intelligenza, sono molto difficili da analizzare. Quindi io sono un cretino. No, lei è recuperabile. Perché lei è un catto progressista inconsapevole, quindi lei è recuperabile, può ancora farcela. E quindi la prima domanda è al paziente, la prima domanda è per chi voti, questa è la prima domanda. No, assolutamente. si riconoscono, posso garantire, avendoli frequentati per molti anni in università, perché chiaramente l'università è il loro feudo, li riconosco ormai, cioè io ho proprio il detector, no? Quindi li riconosco solo da come sono vestiti, da come si atteggiano, quindi non c'è neanche bisogno di fare domande. Manuela, ma ogni tanto possiamo chiamarti? Sì. Posso darti il tuo? Certo, assolutamente. Cioè, vorrei dei pareri su, per esempio, perché gli italiani non fanno figli? Cioè, c'è un'idea su questo? Certo, io però ho una mia idea, ma dal punto di vista psicoanalitico, però. Io ve la dico. Poi, però, cominciano gli sfottò sul fatto che sono gomblottista. Diciamo, no, diccela, diccela. No, allora, io sono del parere che dal 1968 in avanti i cattocomunisti hanno, come si può dire, preso il potere dal punto di vista culturale, hanno occupato l'università. E quindi sono riusciti a dipingere la classe media, in particolar modo la borghesia, come se fosse la radice di tutti i mali, quindi la violenza, la droga, la corruzione, insomma il peggio del peggio del peggio. Quindi sono riusciti in maniera molto subdola a convincere gli italiani che sostanzialmente siamo un popolo meritevoli di estinzione. Quindi secondo me c'è quindi anche un lavoro certosino di anni. Sotto traccia. Sono riusciti a convincere in maniera molto subdola che gli italiani sono portatori di mafia, camorra, 'ndrangheta. Sì, sì. E quindi la gente non fa più figli. Siamo praticamente un popolo meritevole di estinzione e dobbiamo essere sostituiti dai nuovi italiani. Vabbè, fermati Emanuela, sì, che devo andare al traffico. Ci sentiamo presto su altre tematiche. No, siamo in ritardissimo. Guarda l'orario. Grazie Emanuela. Alza. Esperti. Money Farm, eletto per il quarto anno consecutivo miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Hai sentito? Io infatti investo con loro. Io ho il mio consulente. Io con loro ho un intero team di esperti. Ah. E la volatilità? Ogni tanto ribilanci? Ma da quando sei così esperto? Ci vuole un attimo. Vai su moneyfarm.com, il consulente finanziario indipendente eletto numero uno in Italia. Moneyfarm, il tuo migliore investimento. Uno, nessuno, 100 Milan. Niente, devo dire che Emanuela è straordinaria. Io la vorrei ospite fissa. Sì, ma tu l'hai interrotta proprio mentre stava per arrivare al succo della questione. Capito, era il succo qual era? Che c'è stata questa azione da parte dei poteri forti per convincerci che siamo un popolo meritevole di estinzione. Perché? Comunisti. Ma perché? Per fare spazio, stava dicendo, ai nuovi italiani, vale a dire gli extracomunitari. E tu l'hai interrotta qui. Quindi noi siamo i borghesi che devono autodistruggersi per fare spazio. Giusto. Vabbè, dai, siamo anche esigenti del pensiero di Emanuela. No, l'ha detto lei, tu l'hai interrotta su nuovi italiani. Nuovi italiani. Stupendo. Io la chiamiamo spesso e quando vuole Emanuela noi facciamo delle incursioni. Vai, Leo. Allora, che nesso c'è? Che collegamento c'è tra il coronavirus e gli smartphone? Nessuno, se non che entrambi hanno a che fare con i nostri tempi, ma in modo opposto. Lo smartphone è lo specchio esatto del nostro vivere, rapido, veloce, dove sei sempre connesso e in tempo reale puoi rispondere e reagire alle sollecitazioni del mondo esterno. Quindi rapidità e velocità, qualche volta perfino eccessiva. Il coronavirus invece è l'opposto, dai tempi di incubazione che sono lunghi ai tempi di sopravvivenza del virus su alcuni oggetti che pare possa essere perfino di 9 giorni. Soprattutto rispetto ai tempi di cura, al tempo necessario per ipotizzare e sperimentare un vaccino, perfino la diffusione, Cina a parte, prosegue indomita ma non con velocità folle. Poi c'è l'informazione che dopo qualche giorno scalpita, vorrebbe nuove notizie di cui occuparsi, e invece il coronavirus è sempre lì, non ha nemmeno ancora raggiunto il picco e obbliga i mass media a occuparsene ancora nelle prime pagine, spesso anche senza grandi novità rispetto al giorno precedente. Ci sono nuovi contagi, ci sono i morti, c'è la quarantena che dura 2 settimane, tempi lunghissimi per l'informazione di oggi. Il coronavirus non si adegua ai tempi moderni, non si adegua alla velocità dello smartphone, resiste con fierezza all'esigenza di velocità. E dallo Spallanzani i conduttori chiedono, voraci, agli inviati, che novità c'è? Nessuna, bisogna aspettare. Il coronavirus esige tempi lunghi e giornalisti pazienti. Il coronavirus ti inchioda alla lentezza e ci fa fare un tuffo nel passato, quando le epidemie duravano anni e per anni condizionavano la vita delle persone. Certo, per contagiare i nostri tempi il virus ideale sarebbe quello che il primo giorno insorge, timido, il secondo giorno si scatena, il terzo giorno comincia ad arretrare di fronte alle prime cure che immediatamente si trovano e il quarto giorno non c'è più. Così l'informazione può passare a un altro tema voracemente. Ma il coronavirus non è così, è distonico rispetto ai nostri tempi e con la sua lentezza si sta mangiando i mass media, obbligati ad accettare i suoi tempi. Nel XXI secolo quasi tutto si è ormai velocizzato, ma qualcosa di lento ancora resiste. Anche se c'è la tentazione di velocizzare, 9 mesi di gestazione per il parto sono troppi. Meglio sarebbe che dopo il test di gravidanza tutto si risolvesse in un paio di giorni, giusto il tempo di avvisare i parenti. Anche la lunghezza del mutuo esiste. Ma pensate come sarebbe più coerente col nostro secolo se il mutuo invece che in 20 anni si risolvesse in 20 giorni. Anche i treni pendolari resistono nella lentezza. Infatti a bordo dei treni pendolari gli smartphone sembrano quasi fuori luogo, un po' si vergognano e non vedono l'ora di fare bella mostra di sé altrove. Invece anche i treni pendolari stanno lì a testimoniare il passato. E allora, quando vuoi rivivere il tempo che fu, quando vuoi un po' rituffarti in atmosfere dimenticate, basta prendere un treno a bassa velocità. Ad esempio che da Milano ti porta a Saronno con dignitosa lentezza. Poi magari scendi proprio lì, a Saronno, dove il coronavirus sembra un po' più lontano e per un giorno hai tempo di occuparti d'altro. Ricomparirà il coronavirus con tutta la sua lentezza non appena riaccenderai la TV, guarderai i social, darai un'occhiata ai giornali. Quei giornalisti che scalpitano alla ricerca di nuove notizie che arriveranno rapidamente, rapidamente, ma compatibilmente coi tempi lunghi del distonico coronavirus. Di cui parleremo tra poco alle 10, avremo Roberto Bertollini che è stato tanti anni all'OMS. Beh, sai che mi ha colpito l'OMS, hai sentito peggio del terrorismo. Non è terrorismo anche questo? Dato che potenzialmente, cioè dire è peggio del terrorismo. Però pare che il 60% della popolazione mondiale sia potenzialmente a rischio. Vabbè. Accidenti, chi osa parlare della magica Elisabetta? Rudy da Verona arriva con questo messaggio. Va bene, dai, ci fermiamo. La voce qui di Miriam Lucchetti. Dopo la sentiamo nella vecchia pubblicità Bellugi. Uno, nessuno, 100 Milan. Secondo me Manuela psicologa ha ragione. Io sono di destra e la penso anch'io come te, Manuela. Questi sinistri sono tutti meschini e manipolatori. Milan per primo! È proprio brutto ascoltare la radio e scoprirsi i catto comunisti. Dai Milan, sono con te. Quando un argomento è scomodo si taglia corto, Milan? Mamma mia Mila, quando si parla di certi argomenti sei sempre il solito censore. No, siamo qua a parlare. Ragazzi, però abbiamo dato il traffico 3 minuti e 45 secondi in ritardo per dare spazio giustamente a Manuela, l'abbiamo cercata e siamo felici. 3 minuti e 45 secondi, cioè c'è qua l'Alpino, gli sono venuti, sono tornati. Ha mosso due sopracciglia al secondo sopracciglio mosso. È grave, tu grave. Devi capire che esatto. L'Alpino è pronto a tirare fuori i coltelli. Non si muovono mai due sopracciglia. Cioè, quindi cercate di capire, non è censore, ma io starei qua a parlare serenamente. Sono le 10:09. Anzi, proponevo una rubrica fissa. Proponevi una rubrica fissa per Manuela. Io vorrei l'angolo di Manuela. Adesso lo studiamo bene. Se Manuela ogni tanto ci fa la cortesia di dire la sua, noi. Io sono felicissimo. Ma cosa volete? Secondo me, però, i pazienti di Manuela guariscono presto. Un paio di sedute. Non fare ironia. No, non sta facendo ironia. No, perché Manuela, hai sentito? Tu che hai detto Manera non è. E poi dopo appena mette giù clic. No, io penso. Ma Manera dice allora, il peggio del sta peggio. Facendo un complimento. Sta dicendo che i suoi pazienti guariscono presto. Più di più che devo fare. Allora, c'è Sasha dalla provincia di Novara. Eccoci, Sasha. No. Buongiorno Manera. Buongiorno. Eccoci. Ha un piccolo inciso se posso, ma sarò brevissimo. È abbastanza inquietante sapere che una persona come Manuela, così colta, sicuramente così preparata, possa esercitare. Io non ci andrei mai personalmente, questo è un parere personale. Magari è una psicologa bravissima, chi lo sa, nel suo lavoro. Però è così un po' inquietante. Vabbè, Sasha, vai. Poi un'altra... Si sente un po' male, Sasha, ma dove sei? Sei intubato nel... No, ancora non sono intubato. Nel senso in un tunnel, volevo dire. No, sono in un parcheggio. L'ironia spiacevole di Alessandro Milan. No, dai, intendevo sei in un tubo. Sì, abbiamo capito. Vabbè, in dai, un tubo, vai. Peggiore la situazione. No, boh, spero si senta adesso bene. Adesso sì, comunque, vai Sasha. Ah, ok. Niente, volevo dire semplicemente che la nostra generazione, io personalmente sono sui 30 anni, mi sto avvicinando ai 35, quindi diciamo sono anche un po' in ritardo per quel che riguarda fare figli, ma per una semplicissima motivazione, siamo una generazione di precari. Questo è vero, questo è un dato di fatto, cioè molti purtroppo, Sasha hai ragione. Nati. E in più vengono anche a dire che siamo dei bamboccioni, come se non bastasse. Io alla veneranda età di 33 anni devo ancora chiedere dei soldi. Ma perché? Perché mi arrangio con dei lavoretti, perché sono un artigiano, perché devo pagare un fracco di tasse, perché cioè, siamo purtroppo dei... Sasha, su questa hai ragione. Infatti io quando ho letto l'intervista a Derita, sociologo, ripeto, stimatissimo, fondatore del Censis, che ha fatto anche degli... un'analisi molto profonda, però quando dice siamo narcisisti, non vogliamo fare i sacrifici, ecco, quell'aspetto mi sembra un po' un'analisi di una persona, lo dico con massimo rispetto, di una certa età, e che se vedesse i tanti trentenni che sono a 800 euro, 700 euro, 600 euro, 1000 euro, ma come cavolo fanno? Secondo me manca la fascia intermedia, cioè i figli si fanno o quando sei molto giovane perché magari non hai usato precauzioni, oppure dopo i 40, dopo la fascia intermedia. Quindi che Sasha è più... tranquillo, può... Io l'ho fatto a 42 anni, per esempio, mio figlio l'ho avuto. Però la fascia intermedia che fatica a trovare un lavoro stabile, che guadagna... Andrebbe abolita. No, non è che andrebbe abolita. Il figlio devi fare o quando hai 14 anni, per esempio, che non ci pensi subito, che poi lo mantengono i nonni, oppure dopo i 40. In ogni caso lo mantengono i nonni. Sì, sia che lo fai a 14 che a 42 anni. Ma leggevi un titolo sulla Verità prima, no? Verità che corroborava un po' quello che ha detto Manuela. Manuela, no? Cioè, diceva il titolo della Verità... mai così pochi figli, ed è colpa delle elite. È colpa delle elite. Dei cattoprogressisti. Che hanno un po' reso questa borghesia sterile dal punto di vista proprio pratico. Va bene, c'è Carlo da Como. Buongiorno Carlo. Sì, ciao, buongiorno. Allora, io no, non ho i problemi del ragazzo di prima, un anno più di lui, fino a 34. Ho un lavoro stabile e tutto il resto, vabbè, solo che non ho mai smesso di studiare. Sì. Sono in continua formazione e la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me noi siamo una generazione di figli di genitori separati, divorziati. Io sono stato molto fortunato per tutti i genitori intelligenti, sicuramente, ma tanti sono stati usati come strumento per le faide familiari. E quindi cosa vuol dire? Che uno vedendo come si crescono i figli, vedendo quello che hanno fatto i genitori, non fanno figli. Io sono fermamente convinto che tanti non vogliono fare figli. Perché innanzitutto per fare i figli ci vuole un partner col quale mettere su famiglia seria. Questa è la cosa più complicata. Oggi, secondo me, perché creare una relazione è un po' come fondare un'azienda, è veramente un progetto di vita lunghissimo. Ho capito, ma perché i nostri genitori erano più... si accontentavano del primo che passava? I nostri genitori, secondo me, non si accontentavano. Innanzitutto arrivavano da un retaggio storico dove la famiglia non si... era sgretolato, non usava sgretolarsi in maniera diciamo così semplice, e le cose venivano risolte in maniera diversa, ma perché semplicemente non c'era la comunicazione, non so come spiegare. I miei nonni hanno 92-95 anni, sposati da, penso, non so, 70, se ne saranno fatte di cotte e di crude, ma nessuno sapeva niente, c'erano i giornali, il telefono a casa. Oggi le problematiche sono moltiplicate. Sì. cioè un tempo succedevano quello che succede adesso, tradimenti, difficoltà, però un tempo si stava insieme per, proprio beh, questi sì, giorni ricorre l'anniversario del divorzio, sono i 50 anni del divorzio, è vero, in questi giorni sono proprio i 50 anni del secondo divorzio, me il problema è che ognuno in un rapporto di coppia pensa sempre di poter trovare di meglio e allora non ci si impegna più di tanto perché ma sì, tanto poi ne trovo un altro migliore, un'altra migliore. Nelle generazioni precedenti non c'era questo, perché abitavi in campagna, per trovare un vicino devi fare 50 chilometri quindi ti trovavi male ma stavi contro voglia con c'erano le città anche 40 anni fa, Milano esisteva, adesso tu conosci Roma, una donna, 2000 anni, una donna conosce un uomo e subito pensa sì ma ne troverò uno più bello, più figo, più interessante, quindi poi i rapporti durano pochissimo, l'amore finisce sempre comunque, questo si sa, va bene dai, dopo il traffico ma dopo anche lo spot Bellugi, fate grande attenzione, c'è la voce di Miriam Lucchetti, torneremo a parlare di coronavirus. Uomo, sei molto timido e nei momenti clou della serata non riesci mai a farti notare? Allora acquista subito lo Spaccone Bellugi. Lo Spaccone Bellugi è un pupazzo estroverso, personalizzabile, che nei momenti clou della serata racconterà alcuni episodi che ti riguardano e in cui hai fatto bella figura, anche inventati, ponendoti così al centro dell'attenzione, ma senza obbligarti a raccontare in prima persona. Disponibile con cadenza settentrionale, meridionale o anche inglese per le tue serate internazionali. E le donne diranno: wow, che tipo interessante! E non l'avrei scoperto senza lo Spaccone Bellugi. Spaccone Bellugi, una vita da protagonista stando dietro le quinte. Sono molto felice di parlare in questa occasione e annunciare che lo Stracchino 100 grammi Nonno Nanni ha una nuova confezione. Grazie! Lo Stracchino 100 grammi Nonno Nanni è il primo stracchino in confezione biodegradabile e compostabile. La puoi gettare nell'umido e diventerà fertilizzante per la terra. Fai una scelta che piace anche alla natura. Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Leonardo Manera, tu prima hai parlato del coronavirus, hai citato l'OMS, effettivamente ha colpito e sentiamo anche nei giornali di radio che il rappresentante numero uno dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto che insomma questo virus può essere, dovrebbe essere tenuto in considerazione più dell'allarme terrorismo. Allora, vediamo che cosa ci può aiutare a capire Roberto Bertollini, che per tanti anni ha rappresentato l'OMS all'Unione Europea, attualmente è membro della Commissione Salute della Commissione Europea e anche consulente per il Ministero della Salute in Qatar. Eccoci Bertollini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mina, buongiorno Manera. Allora, è un allarme esagerato? Quando parla il numero uno dell'OMS, insomma, dovremmo tutti ascoltarlo, ma è davvero un rischio così paragonabile a quello del terrorismo, addirittura di più? Ma guardi, io penso che il direttore generale abbia voluto usare questa immagine un po' per, non so adesso quanto appropriata, per sollecitare il contributo dei paesi all'iniziativa internazionale di solidarietà che bisogna mettere in piedi per equipaggiare i sistemi sanitari più deboli, ad esempio quelli dei paesi in via di sviluppo, anche quelli dei paesi diciamo della parte meridionale del Mediterraneo, e per mettersi in grado di rispondere a questa epidemia con strumenti adeguati. Quindi bisogna che la cosa abbia un alto livello di attenzione. Ora, l'esempio del terrorismo a me francamente personalmente non piace. Poi però certo, se andiamo a guardare poi il numero dei morti adesso e nel prossimo futuro, raggiungerà numeri abbastanza cospicui, quindi magari dal punto di vista puramente quantitativo, però mi pare che dal punto di vista comunicativo forse l'ha fatto per dire mi raccomando, non sottovalutate, anche parla al mondo, quindi noi non lo sottovalutiamo, però magari ci sono delle zone del mondo dove c'è l'atteggiamento di sottovalutazione. Se lei guarda la mappa dei casi, cioè lei vede che i casi sono, cioè c'è una zona ampia grigia scura, che è quella l'intero continente africano, l'intero America del Sud e alcune zone appunto del Medio Oriente. Quindi voglio dire, è un po' improbabile che non ci sia manco un sospetto in queste zone, capisce? Quindi secondo me anche questo bisogna considerare, le necessità che ci sia una risposta adeguata dovunque, perché questo è un problema del pianeta, ma non un problema come ha dimostrato quel turista inglese che è andato a Singapore, poi è andato in vacanza in Francia, poi è tornato in Inghilterra e è considerato il super, per carità è anche brutto, insomma, il super infetto che ha diffuso il virus un po' dovunque. Lo so, purtroppo ci sono queste figure diciamo un po' sgradevoli, ma purtroppo è così, che diffondono la malattia in diversi posti, come è successo anche nel caso dell'AIDS, anche nel caso della SARS. Ci sono sempre queste persone che hanno questo ruolo diciamo involontario, ovviamente. Però si dice che adesso a febbraio dovrebbe esserci il picco di questa epidemia e dopo con i mesi più caldi dovrebbe un po' tendere a diminuire. Guardi, questo è l'andamento di quasi tutte le epidemie, anzi direi di tutte le epidemie virali, che hanno il loro andamento diciamo con un picco verso diciamo, che arriva in momenti variabili a seconda della patologia ovviamente, e poi tende un po' a diminuire anche a causa degli interventi di sanità pubblica che sono stati messi in atto e che limitano il contagio e contengono la malattia in una zona soltanto, diciamo una zona definita, che è quella cinese. Una delle cose che dice spesso il direttore generale dell'OMS è quella di utilizzare questa window of opportunity, questa finestra di opportunità che è data dall'intervento cinese di contenimento per gli altri paesi per essere pronti laddove il virus uscisse da quella zona. Quindi cioè, ci attendiamo, diciamo che sostanzialmente questa, ci sarà sicuramente un calo nelle prossime settimane. Non possiamo escludere una ripartenza nei prossimi mesi, nei mesi invernali della fine del 2020, però a quell'epoca si spera che attraverso questa finestra di opportunità ci siano strumenti terapeutici e forse anche una fase preliminare di un vaccino che possa consentire un controllo più efficace. Sì, si parla di 18 mesi, d'altronde va sperimentato, va controllato. Ecco, che cosa si sa di questo virus? Per esempio sulla vitalità di questo virus fuori dagli organismi, perché inizialmente hanno detto pochi secondi, poi adesso ho letto da qualche parte che su alcuni materiali può resistere 9 giorni. E allora c'è una bella differenza. Ma guardi, tutte le cose si fa in questo momento, essendo un virus nuovo, tutto viene stimato per analogia con gli altri virus della stessa famiglia. Gli altri virus della stessa famiglia, quindi sia il virus del raffreddore che il virus della SARS, della MERS, di altre malattie legate al coronavirus, sopravvivono all'esterno per poco tempo, per poche ore. Quindi diciamo questa cosa dei 9 giorni non so, sarà stata un'osservazione sporadica, non so bene da dove venga, ma insomma la considererei una notizia un po' esagerata. Diciamo questo virus, come tutti i virus di questa famiglia, rimangono vitali all'esterno per poche ore massimo. Da considerare pure che uno non è che si infetta con un singolo virus, si infetta da quando prende un contatto con un certo numero di virus, tant'è vero. Non basta un singolo virus, ci vuole un contagio diciamo un po' sostanzioso, anche perché diciamo ci sono quando si dice, si raccomanda di pulirsi le mani e di evitare appunto il contatto ravvicinato con le persone malate, è perché le persone malate quando tossiscono o quando toccano si stringono la mano oppure non lo so, si coprono il naso mentre starnutiscono, emettono un numero di virus considerevole. Anche il contagio diciamo può avvenire nella fase asintomatica, ma in realtà si pensa che non sia poi così vero, cioè nella fase asintomatica uno già c'ha un po' di raffreddore, di tosse, capisce? Quindi in realtà il contagio avviene principalmente al momento in cui il soggetto è malato, anche se in maniera molto lieve. Sì, è interessante anche capire la mortalità, c'è chi dice alta, c'è chi dice bassa. Abbiamo scoperto che i due cinesi dello Spallanzani stanno meglio e anche il ricercatore italiano pare che non abbia più la febbre. Anche la persona che ha contagiato diversi altri pare che sia quasi guarito. Pare proprio totalmente guarito, quindi non è un virus mortale, nel senso letale in una maniera altissima. Oppure le statistiche dicono di sì, professore? Guardi, Milan, la SARS aveva una letalità, cioè dei morti sui casi, del 9,6%. La MERS, quella malattia sempre coronavirus nel Medio Oriente, una letalità del 34%. Accidenti. Qui stiamo parlando di una letalità che sui casi confermati è di circa il 2%. in realtà queste malattie da coronavirus, come il raffreddore eccetera, hanno anche molti casi asintomatici o casi lievi che non giungono all'osservazione, diciamo, dell'ospedale, grazie al cielo, perché questo. E da cosa dipende questo? Cioè dal sistema immunitario di alcune persone che reagiscono in modo diverso? Esattamente, dipende dal sistema immunitario, dall'età, dalle condizioni generali. Le persone che vengono colpite più seriamente, che poi in alcuni casi muoiono, sono le persone anziane e che hanno delle altre malattie, diabete, malattie cardiovascolari, che rispondono. Ovviamente c'è anche la persona sana che poi purtroppo va... Come quel medico cinese. Consideri questo anche, che il personale sanitario, di cui ci sono molti, tra cui ci sono molti soggetti affetti adesso, è quello che sta in contatto continuo col virus, quindi con una carica virale anche molto elevata. Quindi questo fa sì che la malattia assuma un carattere anche più aggressivo in queste situazioni, quindi avendo una esposizione continua e possibilmente anche molto sostenuta. Ma quando noi leggiamo quel 2% dobbiamo dire basta? Beh, rispetto alla MERS che era al 34% è impressionante, insomma. Però possiamo dire che questo 2% vuol dire che è una bassa letalità o è una conclusione azzardata? Guardi, io penso che si possa dire che è una bassa letalità, perché probabilmente il 2% è un dato sovrastimato, nel senso che in realtà, se lei ricorda l'influenza cosiddetta suina che comparve qualche anno fa, nel primo periodo i primi casi che si osservarono in Messico avevano una letalità del 10%, poi successivamente, quando il virus un po' si è modificato, ma anche avendo un database e un denominatore, diciamo, più completo, si è visto che in realtà la letalità era più bassa. Quindi bisogna ragionare con calma, ancora ci sono molte cose che non sappiamo, che stiamo studiando, quindi insomma secondo me va un pochino come anche... da dove è generato. Adesso c'è di mezzo il pangolino, avete capito? Il pangolino come animale sarebbe prima i pipistrelli, poi il pangolino, poi in realtà non si è ancora capito, no, da dove. No, io ho visto una figura con un'immagine di questo pangolino, non l'avevo mai visto, un piccolo animaletto carino, insomma, una anche specie poverino di formichiere, tutto con delle squame, però sì. In realtà il virus, il coronavirus, ce ne sono moltissimi tra i pipistrelli. Questo è probabilmente la riserva, diciamo, finale di questi virus, e anche di questo sono i pipistrelli. Poi quello che non si sa è l'animale intermedio, attraverso il quale poi si è giunto in contatto con l'uomo, perché i pipistrelli, anche se ho visto immagini su internet di gente che mangiava i pipistrelli, insomma, penso sia un evento piuttosto raro. Perfino a Wuhan, non riesco a capire, tanto sia l'appetitosi pipistrelli, però vabbè, questo. Ma una forma di prevenzione può anche essere aumentare le difese immunitarie, o è sostanzialmente inutile? Ma il problema è come le aumenta le difese immunitarie, perché al di là dei vaccini che consentono di manifestare, cioè di realizzare una risposta immunitaria dell'organismo in una condizione di non malattia, il resto significa soltanto stare in buona salute, insomma. Cioè gli integratori che vengono proposti come non servono assolutamente niente. Guarda, io ho letto di tutto, l'aglio addirittura, c'era un certo punto uscito fuori l'aglio, sì, che era preventivo. Insomma, anche la tachipirina, 8 giorni di tachipirina continua. Questa doveva servire, sì, è partita anche per la tachipirina. No, l'unica è portare avanti le misure di prevenzione. Ma l'Italia sta facendo bene da questo punto di vista? Lei ha dell'idea? Ma io credo di sì. Sì. Io credo che stia facendo bene l'Italia, anche se lei guarda il numero dei casi, in Italia sono rimasti tre ormai da diversi giorni, quindi insomma in altri paesi europei, anche se voglio dire anche lì sono pochi i casi, sono 11-12, insomma c'è qualcosina in più, ma in realtà l'Italia sta rispondendo bene. Io quello che vorrei sottolineare è che l'Italia, a mio modo di vedere, dovrebbe anche contribuire alla risposta globale, internazionale, quindi contribuire anche a proteggersi, poi in maniera egoistica se vuole, perché supportare i sistemi sanitari dell'Albania, del Montenegro, piuttosto che della Tunisia o della Libia, ci consente anche di proteggerci a noi. Perché l'ultima questione è questa, Bertolini, quanto ci dobbiamo fidare della Cina? Cioè prima si diceva la SARS hanno sottovalutato, qui forse si sono mossi meglio, ma qualche giorno insomma non è che possiamo dire è una democrazia aperta, liberale. Quanto ci dobbiamo fidare di quello che ci dice? Guardi, io penso che su questo caso specifico la Cina abbia reagito in modo, forse con qualche leggero ritardo, ma non lo possiamo sapere ancora, ma secondo me ha reagito in modo incredibile. Cioè, io sfido chiunque a bloccare 70 milioni di persone per diverse settimane. Cioè, a me sembra una reazione efficace. Ecco. Perfetto, grazie Roberto Bertolini, ci ha aiutato a capire e a chiarire tante cose e tanti dubbi, perché i dubbi purtroppo ce ne sono ancora tantissimi. Per evitare il panico ci ha detto una cosa importante, cioè che la carica virale deve essere importante. Sì, esatto, e che poi la letalità, cioè 2%, la MERS, quella del Medio Oriente, cioè da 34%, cioè una letalità impressionante. Comunque, per evitare il coronavirus c'è sempre l'elisir del dottor Meazza, che viene venduto regolarmente, ho visto anche in internet ormai, sì. Risolve tutti i problemi. Bene, cos'è che dice Meazza? Dice che è venduto sotto banco, non regolarmente, però risolve di regolare, tutti. Regolare effettivamente Meazza. Ho letto che risolve tutti i problemi, sterilità, tosse, coronavirus, è l'elisir del dottor Meazza, calvizie, tutto risolve. Tu non lo stai prendendo però, Leonardo. Ne ho già ordinati 3 flaconi. Andiamo alla borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Nell'Ottocento erano precari, Sasha, nell'Ottocento, e facevano 7-10 figli. Io ho 34 anni e negli ultimi 4 anni ho avuto con mia moglie 3 gravidanze. I miei coetanei non fanno figli perché? Perché devono viaggiare, perché non c'è il tempo, perché poi io come faccio? Mi sa che il narcisismo ci sta proprio tutto. Infatti è quel narcisismo a cui faceva riferimento De Rita, Senti un altro messaggio. Ragazzi, ma la voce della Lucchetti e la voce della Fusconi sono delle voci radiofoniche bellissime, ma è veramente uno spreco tenerle mute là dietro in redazione. Ma facciamo un'inversione. Hanno fatto loro un passo indietro. Hanno fatto loro un passo indietro. E portiamo la Fusconi e Lucchetti, la Lucchetti a parlare ai microfoni. Di uno nessuno 100.000. Esatto, poi Mute, Fusconi e Lucchetti, cioè, Leonardo, passa è un rumoroso in passo indietro, diciamo, esatto. Molto rumoroso. Passa un giorno in redazione, caro ascoltatore, Mute, Lucchetti e Fusconi. Noi parliamo qui 2 ore, un'ora e mezza, ma loro parlano tutto il giorno senza interruzione. Sì, tu intanto alle 11:15 via a casa. Allora, si dibatte molto, ed è un tema a me caro, non solo per i libri che ho scritto, ma perché tutti dovrebbero avere a cuore questo tema, l'idea della cultura, del leggere, della lettura, del diffondere insomma il sapere attraverso la lettura di un buon libro, ecco, o che non sia neanche buono, insomma, un libro. E allora c'è tutto questo dibattito su come aiutare un settore che è in difficoltà, ci sono proposte di leggi, tavoli di lavoro, gli editori, il governo, i librai, tutto giusto. Poi ci sono delle iniziative che a volte sparigliano anche un po' le carte, come quella del sindaco di Cerea, siamo in provincia di Verona, Marco Franzoni della Lega. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Allora, buongiorno. Il sindaco dice va bene i tavoli, va bene le leggi, va bene le proposte, i dibattiti in Parlamento, ma io dico facciamo una bella iniziativa che ha chiamato, se non sbaglio, Librerie Tasse Zero. Oggi ne parla anche il giornale, a dire, cioè chi apre una libreria qui nel comune di Cerea ha zero tasse comunali. Certo. Sono tante le tasse comunali per aprire un esercizio commerciale, una libreria? Sono sempre tante, no, a parte gli scherzi. Comunque noi, la nostra iniziativa appunto nasce dallo scoramento, leggendo un po' i dati sulle chiusure delle librerie, vedendo che c'era una proposta di legge ferma da tempo in Parlamento, ho agito sostanzialmente un po' distinto, sì. E mi sono detto ma perché non fare qualcosa a livello comunale e anticipare un po', dare un segnale in questo senso. Ah, ma tanto qua. Che oggi il giornale con Luigi Mascheroni dice ma estendiamola in tutta Italia, cioè dopo discutiamo di tutto il tema dell'e-commerce, del fatto degli sconti dei libri online, degli aiuti ai piccoli editori, degli aiuti alle grandi librerie, le piccole librerie, cioè, però partiamo da qui. chi vuole aprire una libreria. La libreria a Cerea, un paese di 17.000 abitanti, che ha visto la chiusura di una libreria ancora 10 anni fa. Poi non c'è stato più una nessuna iniziativa privata in questo senso. Cioè non esiste una libreria? Cioè... Non esiste una libreria e tra l'altro nei comuni vicini che fanno un po' riferimento come bacino un po' di utenza a Cerea possiamo raggiungere sui 25.000-30.000 abitanti, non esiste una libreria. Beh, e da lì è nata questa idea, insomma, di azzerare le tasse di competenza comunale dall'IMU o che ora comprende anche questo per quanto per quanto per il primo noi, anno noi per... facciamo una abbiamo fatto una delibera di giunta approvata come atto di indirizzo per 3 anni rinnovabile per altri 3 anni. Beh, quindi si potrebbe arrivare a 6 anni senza pagare l'IMU, sì, senza pagare la tassa, pagare la Tari, sui rifiuti, la Tasi, che adesso è compresa. Ma da parte dei cittadini di Cerea c'è, si sente l'esigenza di avere una libreria oppure no? Ma noi ci stiamo muovendo moltissimo a livello come amministrazione sulle iniziative a carattere culturale, vedo che sono comunque partecipate, quindi credo che ci sia margine per costruire, oltre all'iniziativa pubblica tramite la nostra biblioteca, tramite i nostri eventi. Ricordo che da 2 anni a questa parte noi organizziamo il Festival della Lettura, coinvolgendo il mondo delle scuole, coinvolgendo il mondo dell'associazionismo e anche degli esercenti, perché mi piacerebbe spostare proprio i momenti di lettura anche nei bar, in altri esercizi, sì, pubblici, per coinvolgere tutta la città. Secondo me si potrebbe, tramite un'iniziativa privata, favorire ancora di più, sviluppare ancora di più questi temi. Ragazzi, quindi... ci sono 6 possibili anni, 3+3, diciamo, di esenzione delle, sì, tasse comunali. Sì. Tra l'altro, devo dire, ne abbiamo parlato varie volte, non è che si legga, si legge poco in Italia, ma il mercato, questo dati degli editori, è in aumento, è aumentato del 4% quest'anno, l'anno scorso rispetto a quello precedente. Contrariamente, sì, ai giornali, che non si vendono e non si comprano, certo, più, i lettori di libri sono in leggera crescita, quindi c'è, certo, un piccolo mercato. Ma io me lo auguro e me lo auguro sempre di più. Sono anch'io un amministratore, comunque una persona che utilizza i social e che utilizza sicuramente la comunicazione veloce, sintetica e quant'altro, però capisco assolutamente che non può essere sufficiente, cioè serve comunque il momento, lo spazio di riflessione, di approfondimento che gli strumenti di comunicazione attuale non possono dare. Quindi la lettura in questo senso qua significa ricerca, approfondimento, riflessione, e confronto, dialogo, e sono, certo, tutti i valori che ci mancano, ma sulla quale ci dobbiamo assolutamente mettere tutti in discussione e lavorare. Ci scrive Sindaco, un ascoltatore, dice: far pagare meno tasse alle librerie non è consentito in Europa perché sono considerati aiuti di Stato, ma queste sono le tasse comunali, credo, allora, che lei lo possa fare. Sì, noi, io ho parlato a livello tecnico, noi praticamente, anche per evitare il discorso dell'aiuto non c'era di Stato, secondo noi un discorso di legittimità o di concorrenza sleale nel territorio, in quanto mancava la libreria, quindi esistente, certo, sì, e di conseguenza parliamo di una possibile apertura, perché il mercato, certo, immagino possa prevedere. Sì, perché se lei l'avesse fatto per una libreria che apre, ma se ce ne fossero altre a Cerea, esatto, noi proprio come l'abbiamo impostata, anche se lo slogan è tasse zero, ma l'abbiamo impostata proprio come politica di indirizzo culturale, quindi, okay, il corrispondente ammontare dell'importo di tutte queste tasse verrà dato sotto forma, non come sgravio, ma sotto forma di contributo. Ah, perfetto. Quindi diciamo è come se le pagano, ma voi le restituite, sì, sotto forma di, sì, contributo alla, io, libreria. Una curiosità. Tecnicamente, sì, ovviamente motivato proprio per il valore in sé della libreria, sì, che ha un valore culturale, sociale e civile che altre attività magari non possono generare, certo, insomma. Sì, chiedevo, se io apro un negozio che però non ha solo libri, per esempio libri e scampoli di tessuto, ecco, posso essere ugualmente sgravato dalle tasse? l'italiano maniera che magari qualcuno tenderà a provarsi. Giustamente. No, noi ovviamente l'attività principale deve essere assolutamente la libreria principale, no, però posso avere uno spazio minore dedicato ad altri prodotti. No, deve essere sempre in ambito culturale, può tranquillamente, chiaro, allargarsi. Libri e bibite. caffè. No, Sindaco. No, però altre attività, dai, incontri con l'autore, i laboratori didattici, insomma, tutte quelle che sono le attività che possono aiutare, sì. Anzi forse sostenere di più rispetto alla vendita semplice del libro. Anche. Sindaco, noi la ringraziamo, sindaco di Cerea, provincia di Verona, Marco Franzoni della Lega, che ha detto mi interessa la questione, vado ad aprire un negozio che come magari attività di facciata vende libri, poi poi dopo gamberetti, sì, piccola scampi, cucina, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, dal cibo di Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, rimaniamo sempre in tema di cibo perché a quest'ora si ha fame, almeno io. Sono tornate le mitiche ricette di Giorgia. Io sono felice di questa cosa. Buongiorno. Cari amici di Radio 24, benvenuti alla mia rubrica Le ricette facili di Giorgia. Le mie ricette è la tradizione italiana. Ma sì, preparate facili la vostra Giorgia. Comunque tra poco arriva la primavera, è tempo di dieta, quindi oggi vi aiuto a tornare in forma con una bella ricettina italiana, perché non c'è sta niente di meglio della cucina italiana. Sì. Statevi appena a sentire che certe occasioni passano una volta sola nella vita, e da quando non c'è più lui, queste occasioni, i treni in orario non ci sono neanche più, i treni che passano, non mi faccia parlare. Una parola è troppo, due sono poche. Oggi prepariamo una Caesar salad. Cos'è? Una Caesar salad. Caesar salad. E già il nome mi piace. Perché Cesare è l'imperatore di Roma. E sì, la capitale d'Italia qual è? È Roma. L'ingrediente principale per fare Caesar salad è l'insalata. Se siete radica e scicchi, la potete raccogliere nel vostro orticello biologico con i vostri bei forbicioni di design, che forse per me li userei per tagliare le mani ai borseggiatori. Se invece siete normali, no, come normali e non dei radica e scicchi, ma perché normali? L'insalata la trovate al supermercato, quella bella c'è lavata in busta di plastica che tanto Greta non bevete. Allora prendete ste foglie di insalata, sì, e scegliete le foglie migliori, forti, vigorose, foglie che credono nella patria, foglie cristiane, foglie di insalata cristiane. Ma sono foglie, mica quelle foglie molli che appena le tocchi con la forchetta si mettono a frignare. Le foglie frignanti. Adesso piate il pane, che deve essere pane del mulino di Torpignattara, sì, e togliete la crosta. Perché? Sì, perché la crosta è scura, quindi non serve a niente, sta sempre lì a ciondolare e basta. Giustamente la crosta stia a casa sua, eliminata dal pane bianco. Fate il pane a cubetti e fatelo saltare in padella. Intanto vi potete dedicare alla salsa, che è una specie di maionese. Prendete un uovo fresco di gallina romana. La riconoscete subito la gallina romana, perché se mette a litigare con i tassinari. Sì. Buttate l'uovo nel frullatore e aggiungete aceto, aglio, sale, pepe e un po' di salsa Worcester, che si chiama così in onore di uno dei sette colli di Roma, il colle Worcester. Frullate senza pietà. Non c'è stata pensa troppo, che tanto se gli ingredienti sono italiani, se gli ingredienti sono buoni, la ricetta si fa da sola. Perché quelli che pensano troppo sono nemici del popolo italiano. Italiano. Invece le ricette per tutti sono le ricette facili di Giorgia. La capitale d'Italia è Roma. Roma. Vabbè, quindi questa è la ricetta, abbiamo detto, della la Caesar salad. Sì, la Caesar salad. La Caesar salad. Con la salsa Worcester. Worcester. Va bene, va bene. Grazie. Abbiamo un ascoltatore italiano. No. E qua telefono anche quelle di tutte le nazionalità: bianchi, rossi, gialli, neri. Vabbè, e allora? Se vuoi telefonare allora? Prima di rispondere a delle domande. Tipo? Domande per dimostrare che conosci l'Italia. Dove nasce il fiume Po, quali sono gli affluenti. Cioè, c'è stato il mio collega del Pisi l'altro giorno. sì, Geppo Carosio. Va bene, ringraziamo Giorgia per queste ricette. È bella questa cosa della... l'insalata deve essere bella fresca, no? Deve essere... Foglie vigorose, no? Foglie... No, io direi semplicemente appassite o fresche. Piagnucolone, piagnucolona! Fatta fare insalata... Nel Nord Africa. Ma cosa sta dicendo? C'è l'insalata anche lì. Fresca. Fatta accompagnare il kebab, foglia piagnucolona. Vabbè. La foglia ciondolona. Ma che ciondolona? Che foglia? La foglia o è vigorosa o è ciondolona? Ma no, o è fresca o è appassita? La foglia ciondolona. Torna al tuo paese. Sì, è un po' ciondolona quando è appassita. Ma dove? Che paese? Un'insalata è. La Cesare Salad è fatta con le foglie vigorose, belle, fresche, sì, italiane. Vabbè, ancora sta roba italiana. Vabbè, vabbè, ma adesso Giorgia, tra l'altro, è stata in America, si sarà mangiata, non so, anche la salsa Worcester, la Caesar Salad per l'appunto, insomma. Quindi, anche quando vado all'estero mangio solo i piatti tipici della tradizione italiana. Come la Caesar Salad? Un hamburger italiano, la Cesare Salad italiana. La salsa Worcester. Il plum cake italiano. Il plum cake italiano, il plum cake. Va bene, il plum cake, va bene, ci fermiamo qui sul plum cake, anche il pan cake c'è, anche, va bene, dai, ci fermiamo, la ringraziamo Giorgia, venga a trovarci quando vuole con le sue straordinarie ricette. 100milan@radio24.it è la mail, se volete invece italianizza il tuo cognome, Milano, non Milan. Milan esterofilo, esterofilo. Se no c'è anche uno nessuno 100 Miriam, potremmo titolare così la trasmissione quando Mina e Lucchetti insieme a Elisabetta Fusconi prenderanno il comando. Ciao. Catto progressista è la versione 2.0 del catto comunismo. Nessuno, nessuno.